niente, non lo fai camminare, vabbè che lì non è a posto per farlo camminare, capito? Ai miei c'hanno le crocchette li lascio, boh, basta. Qualche volta l'osso con un po' di carne attaccato, glielo bollisco, però aveva il tuo carmagnatore in nuda, solo crocchette. Vabbè, no, io le faccio la pasta, io compro la pasta, quella al supermercato per cani, la bollisco, la metto, mio genero porta, c'è un amico macellaio, porta tutti i ritagli, c'è un tegame grande grande, dici la begura, mi dice base la begura Trento, col fornellone, gliela bollisco, gliela taglio tutta a pezzi, gliela mischio in mezzo alla pasta e mangiano così. Questa maniera è più bella che io. Vabbè. Vabbè. Oh, ma lui, ma ancora caccia, beh. Un bel. Io sono quel puttana ancora, boh. Non mi assicuro di pisamini. Io sono costume. Non mi agio manco un gatto. Me l'ho già cambiato 2 o 3 volte. Avevo oggi borsa e pantaloncini. C'è un po' di arietta, ma è calda, cazzo. È aria calda la mazza nelle varie. E c'è domani abbassa la temperatura, speriamo. A me mi hanno detto che domani aumenta. No, non me lo dite, no. Ha detto che abbassava la temperatura. Oggi siamo arrivati a 37,5, 38. Domani dice che ci sono 3 gradi in meno. Boh, saremo sempre intorno ai 34, 35. Comunque non è che ci abbassai, Ci abbassava la bandiera, mi ha detto, ehi, a fine settimana aumenta anche 40 gradi. Beh. No, no, no. Mi dica imbagliato. Abbassa, abbassa la temperatura. C'è di nuovo questa perturbazione di passaggio, ma già abbassa. Poi inizia nuovamente il maestrale, adesso siamo 2 o 3 giorni a Libeccio, Scirocco, capito? Castanenotti non si ripirava, no, si ripirava, era tutto aperto a casa, non si respirava a casa. E non me lo dia a me, claro, perché il cazzino che era lo ventilatore visto. Lo so, però fa male, Tony, ieri oggi mi ho dovuto prendere una bustina nuova per la schiena. Hai visto che ci siamo visti, che ti ho detto c'è nuovamente mal di schiena? Perché stiamo dormendo male, non si può dormire con l'aria condizionata accesa. È una cosa che fa di troppo male. No, ma io, alle condizionate, manco la tecnica, mi ha detto che lo so come manca la bozza e poi fate male. Il ventilatore l'ho messo al minimo, puntato in alto, al soffitto. E mi arriva l'arietta, leggera, leggera, e mi va bene così. E infatti non mi fa male. Se mi butto il ventilatore mi manca la polsi. E anche il ventilatore non bisogna metterlo fisso, bisogna metterlo a girare, a fare aria in tutta la stanza, perché se te lo punti addosso anche quello fa male. Lo so. Manuè, e tu? Io non faccio nulla, né il ventilatore né il condizionatore. Tu c'hai la finestra aperta, la botella appena vicino. Ma giù l'antenna d'anse, boh. Propagazione comunque, esci a vedere, ho 45 è tutto muro, si tende uno spagnolo ogni addanto, esci a vedere, ma il 23 non c'è nessuno. Sul 10 c'è propagazione, un bel niente, da fuori, Sul 23 c'è qualcuno che ogni tanto schiaccia la portante, però no, non c'è traffico, abbassa, esci, alza, va nel tubo, va. Ma la fottinuta. Non c'è un'anima. Tutti i canti erano fresco, sommi, uia. Sì, tutti a curtendi, so, oggi si tendi, mentre dici franco, cosa vuoi aiutare? Curtavo guerremme. E beh, ma io quando lo vedessi non sono tutto. E Franco neanche qua sta facendo sentire. Attento, Sorso! Fratello di Sorso! Cazzo, vai andare in giro, Franco, vai andare in pensione, tu ne giri, tocca andare in giro, ragazza, sarò da rubarlo. Icca, è pietà, devo abbigliarsi il rovino. Ah, saluta un barroco che fa la goccia, la canonica femmina. Ah, dici che non c'è un vino che mi dice lo prete, dici che è mai buono. No, ultimo non c'è lo vecchio, Non ce n'è preti che bevono vino cattivo. L'ho preso. Ma non è, arriva un po' di vino, un bicio buono. Bisogna un vino di Iesri, bisogna. Iesri, ma Rubio. Che ce l'hanno un bocca a detto? Verraccia, verraccia. E glielo regalano comunque, lo so. Tutte le chiese glielo portano. Quello del parroco e il produttore ce glielo portava lo stesso. Un bidone da 25 litri, uno di Sorso. Era un bel buono. Vabbè. Chi si è stato ne messi? Non paga ni nuda. Paga tutto l'arcivescovado. E poi dici, venerdì santo non si mangia la carne. Ah, è buono che non venga detto mangia più carne di noi. No, ma che? A te la raga, ho il cane, ragazzi. Manuel, tu ti sei rilassenti, io ti vengo qui. Sì, rilassenti, Uia, con che coggaccio è poco da rilassarti, beh. Io dopo mi vesto perché mi lavo, faccio la doccia, perché a me così non mi piace per un mutante che ci viene qualcuno, dove che non viene nessuno, eh? Allora te ne affutte, ma lo senti voi che sto grobbiazzare a culo nudo io? Senza culo nudo. Allora, ma non mi interessa, a casa mia potete ci mi biasi. A parte il fatto che tutto c'è tutta la rete alta con quelle fasce verdi, come si dice, lì si brangi il vento a te non si vede niente. Mi vuole guardare solo con lo drone. E che c'ho quel tessuto verde, non si vede nulla. Tutto recintato, così non vede nulla nessuno. Tony, stamattina sono andato in farmacia a pesarmi, ho dimagrito un po', e sono andato lì, e sono salito sulla bilancia, e mi ha detto, si prega di salire una volta. A voi la c'è la nigata, me. Cazzo, penso alla bilancia, si è cercata. Sì, la bilancia. Si è cercata, penso alla bilancia. Si prega una volta, ciu-ciu. Pensa un po', già vedo 18 mesi, no, sono magrolino, io. Già vedo piazzato. Poi con questo mal di schiena che c'ha, lo devi fare un corino a mare. Apportatevi. Non è tanto. Oh, ma io pensavo che tu che non stavo uscendo, avanti, chi vuole entrare? Invece deve essere la portante, entra. Chi ti sente, non il pillo il culo, ti sente. Tanto è Pio Pio, se vuoi entrare entra, se non c'è la mia luce, non si senti fastidio. Ma io passo, sì. Ehi. Mi sento tutti, non c'è problema. Però se vuole entrare, siamo qua per chiacchierare, per ammazzare il tempo. Non ha gana. Se non ne ha voglia, allora pazienza. Se vuole entrare, siamo qua. Siamo qua, qua. No, ho più sentito alla greffa qua, boh. Lo sto accendendo ogni tanto, ma non ho più sentito nessuno. Ehi, Marino, boh. Non entra più Marino. C'è anche Bacchisio che c'era. Ehi, quella gente lì, oh, e Bacchisio. Vabbè, erano sempre qua, loro. Facevano due chiacchiere, vedi, Marino ogni tanto si affaccia. Luca, non ho più sentito, i due Luca, non ha gente su bianco nessuno, infatti te l'ho detto, ce l'avevo sempre spento, poi ho detto, no, ogni tanto ci facciamo due chiacchiere lì, e allora l'ho riattivato. Se io l'ho, era sempre buttato da una parte, quando poi ho detto Manuele, ci vedi, e quindi l'ho messo operativo. Ehi, è fatto bene, alternativa, giusto per fare due chiacchiere. Tanto oramai è libera scelta, voi vaghi su chi te biasi, da una base o dall'altra. Sempre radio stai facendo, l'importante è che non ci siano altre cose, capito? Già va bene. Due chiacchiere, senza offendere nessuno, ognuno dice la sua. Sì, ma hai visto cosa parliamo di Emanuele, o quando c'è Gian Maria, o qualcuno altro. Del più del meno e basta, almeno qua non ti rompono le scatole, capito? Sopra modulazione, chi tacco, boh. Ehi, non ti preoccupare, c'era un periodo, mi dirà Gio Maria, c'era un periodo che c'era un sacco di casino. Carruttava, gafazia, che sovramodulava, portanti, di tutto erano, musica. Bambini poi ce n'erano a uffa, bambinetti piccolini mi. Che se li davano ai genitori in un baracchino a rompere le balle, boh. Sì, e glielo compravano al supermercato, se li libera vendita cosa. Lascia perdere a me che io non agio di chi si giocattoli. I portatili che ho, ne ho due che sono digitali e costano un barca di soldi. Che per entrare lì devi avere il nominativo, se no ti fanno entrare perché sono. Devi essere appunto iscritto per sbloccare il. Ci vuole un codice. E poi gli altri due sono lo stesso, non sono cinesi, capito? E cappa. E vabbè, dunque, di ferrafa, se non puoi modulare una parte e modulare l'altra, le due chiacchiere si fanno sempre, dai. Fa piacere con gli amici, mi ti rilassi un pochetto. Quando non sai cosa fa. Sì, quando ti vado a rilassare è tutto rilassamento, capito? Oh, vi lascio 5 minuti, dai, che ha chiamato nuovamente mia moglie, invece che vuole ritirare la roba stessa che non fa arrivare. Gli sto buono di cara, ti arrivo subito. Ehi, ti arrivo dopo con l'ansia, così è raga. Se li metto a basso, cazzi cani me ne la stracciano, quindi preferisco tirarli in alto, io le stendo, io le ritiro, Tony, cosa ci devi fare? E la basso e ogni arriva la roba in terra. E vabbè, metti in alto, però poi con un bastone abbassi quando devi ritirare la roba, e poi di nuovo in alto quando devi asciugare, e così tu mogliri, diciamo. E infatti adesso le faccio così, le faccio un bastone con la V a mantenere sopra il cavo, capito? Va bene, dai, ci sentiamo tra un attimo, vai Emanuele. Ok, cla, vai Tony. Via, d'accordo. Buon standby. Niente, immagino il suo matti, Emanuele. Ancora metti, che senso sono mettere i cattoli. I cintroni buonissimi, la verità, adesso forse ce ne sono altro po' che hanno fatto. Poi diventa troppo semi un casino. Però buoni, buoni insaporiti. Con cibo non è soltanto acqua e buono. Ma se io ci devo essere amichissimo matti, quando mette lui è pronto a mangiare sarà una squisitezza, guarda. Se sono ancora quello vuol dire che è piantato in ritardo, scusa. Beh, quello senza ombra di dubbio. Oi, c'è tanto di gallura. Ma che se no, che cosa di la via mangiati? E non mi so quella c'è Maria. E se subito lui diventa i miei tagliani. Aspetta, quando si fa tenere lui. Sì, non è che mi ha due pensioni io prima di diventare lui, no? Sì. E allora, per carità, che... Io, Sant'Antonio mio, che bello che è, la domani in ferie, che bello. Sant'Antonio col petrolio, E mai sono domani sono di pomeriggio, ma mi prendo il trao, se vuoi venire domani sia sul tardi, ci beviamo una cosa a prendermi, ok. Ega. Gianni. Quello è il macellaio che lavora su. Ah, a che Gianni viene a? Ma no, io sto parlando sempre di Gianni un mastedaggio. Quello che vado a prendere io. Non vado a prendere altro nessuno io, non ti preoccupare. Ma tu glielo devi dire. Cazzo, si sa che motorino. Cazzo è lontano, E lui l'ha sequestrato il libretto, che la macchina in costruzione della casa sua ferma e la patente. Se quando non c'è istruttore adesso non gli dà il coso, dice che lui patteggia. Aveva la patente, se gliela tolgo, mi sembra strano però. E quando ve la do, sei mesi. Dice che si patteggia, però gliela posso andare anche prima, però la macchina non la può toccare. E che macchina va? Una bravo di Civici antichi, per carità, infatti che ne vuoi comprare una, va, è la guida del fratello però, la guida della compagna. Cazzo di bebè. A lasciare il bene se sta guidando Mizzi, non ho preso. Sa, l'ha voluta lui, cazzo, non sa che adesso si è controllato. E poi era che recidivo, poi vabbè il figlio di Scaglia, lui era il 118, c'era un 88. Si sono puntati chi mi ha il motore e lo baitavano. E dopo una compagna si è bevuto la birretta e poi si è bevuto un cremo whisky. Come poi sono usciti, bussati in macchina, bulla, mi seguiti e l'hai fermato il coipo. Secondo me l'hanno tentati. L'hanno tentati sicuramente. Sì. Poi quando ha chiamato a me sono andato io, allora lì prima verbale che la prende in custodia lì, lui non la tocca più la macchina, sì. E anzi mi dà la patente, pronto. Ah, soffi qua. Ma tu guarda, sono stipio io. Vabbè, la soffiata apposta, e beh, ti grigio il cappuccio. C'ho la cameramente in bocca, non mangiarlo. E poi adesso con un bicchiere di birra lo stesso ti solleva già il coso, fatti lo gonto. E allora? Infatti era disperato, come faccio? Che a mesi non erano in casa sua, capito? E la giurita ha detto, più che tu non puoi chiamarlo, sono l'ultimo a dare una mano. Infatti mi ha chiamato, io ero mutante per la televisione, mi è saluto in mezzo, guarda, sveglio, sì, se mi fa un favore vieni a prendermi, mi ha fatto la polizia. Anche chi mi sotto il mingo non vedevo nessuno, boh. Poi vedevo una pattuglia, toccato lo sale chi, no? Che è ancora i chi. Sono avvicinato e fa tirare lì, boh, dai da. Ma da tanto c'è lì che lavora? No, lui praticamente prima lavorava a Porto Torres. Prima ancora, allora, nella catena dove lavora lui lo spostano ogni tanto, capito? Si mise un anno, facciano abbassi, poi due anni, muro, poi lo spostano in un'altra parte, capito? È un giro. Ah, andava. E Piera, ma non vedo la giubbetta da Florina, si è fatto un conto, lo mangia un inizio. Ma comunque si deve attrezzare, perché da là, cazzo di buccia, si deve andare che dà, è dura. Va bene una volta, due volte, tre volte, a poi iniziarsi, si è pesanti. Ma noi, guarda, io ho fatto, ma a casa mia, 0,38 km. Sono andato a pigliare Edno, l'ho accompagnato sul lume sole e sono ritornato poi a casa mia. E tu pensa a questo giro che scendo, salgo, discendo, pure vado, insomma, 55 km sono lì. 55 km, ha andato un mese in altri chilometri da Magnanto. Lo so, perché sono andate e ritorno, poi devo andare a pigliare una sera, quindi. Io l'ho guardato apposta perché quel giorno dovevo uscire. L'ho coperto la mattina, sono sceso a casa mia, era di domenica, mi siamo di sabato, non me la metto. Noi siamo se non lavoriamo. Poi da casa mia, se il resto del giorno sono uscito, devo fare cosa? Sono andato a pigliare Torretto. Porta la casa sua, porta a casa mia, 55 km. Figurati. Sono un bel. Fare così, ma ogni lì è pesante. È pesante. Ma poi anche nafta, capito? Boh. A me con 20 euro di nafta, per esempio, mi faccio la ghida da travagliare. Ma io faccio 7 km a casa mia a travagliare. È bello che questa gente qua, cazzo, va bene. Un passaggio, due passaggi, due volte, tre volte. Bello che non si azzardano, non gli viene in mente di dire, Tottoni, tiro solo la benzina, visto che viene a prendermi, mi porti, mi riporti. Cazzo, ma non, io non so, questa gente qua, vedi, non riesco a sopportarlo. Ma deve essere la solita, aveva detto. Cazzo, ma nafta, ma è andato bene, aveva detto no. Vai a piedi lo dramma e fate la vagogna, allora ha detto. Se rimane grosso, cazzo di si sacrificheggia, accompagnati e poi non vedete mai benzina. E beh, infatti mettono andare a piedi, per me già si via lo dramma. Ma cazzo, non avrebbe bisogno di vedere la surrida, no? Vedi che arrivi con un gabusuio. Allora, le sigarette mi ha detto, compareggia. No, in questi giorni mi stavano convinto alla colazione. Quando si a travagliare, rimasi a bizzo una cosa, non bisogna del caffè che non è che piglia assai come da io. Beh, vabbè, vediamo un po' se è arrivato Gio Maria ci si. Beh. Claudio, la roba bucata dai. Mi sa bene il viso, Manuele, metto in carica il telefonino. Telefonino? Va, telefonino, cazzo. Un buon fake. Il telefonone, chissà. Oh, yeah. Mi ha tirato in mano, rompe le balle, è scomodo, te l'ho detto. Lì devi avere un microfono esterno, va benissimo. Lo appoggi e schiacci solo il microfono. E io. Ok, poi la Libia già mi manda un messaggio, Claudio. Esagerata. Poi già ti ha a te, limita. Dopo le 9. Eia. Cazzo, io ce la valga ancora, mica c'è caldo ancora. Beh. Che sono le 7 e 17, vai giù. Ciao. E Tony, sul tardi. Capito, sul tardi. Eia. Dopo 9 e mezzo, Cla. Eh sì. A toccare alle 10 almeno, dai. Prima no, capito. Dai, comunque già ci sentiamo più tardi, dai. Cappa, andiamo bene, dai. Dai, che io adesso vado a farmi la doccia. Mi sono riposato anche abbastanza. Se no poi invece trovo in fretta, che è presa. Va bene, a dopo allora. Ciao Claudio, ciao Emanuele. State bene, a più tardi. Fate la canotta, la luce, torna a sura. No, che c'è fresco verso le 10, dai. Andare, a dopo. Ciao Claudio, anche a te. Ciao a tutti e due, a frappè, ciao. Ok, Manuele, a te già passato un po' le 9, dai. Ok. Ok. Ciao. pane a caricare il buffer. L'ho messo a caricare. E a me sta di appigliare la bugna. Eia, il baffuzzi si è messo a caricare. Le bananette ce li hai? Il microfono, ciao dopo. Eia, ciao, che la cos'è, Manuè? Le bananette ce li hai? Torna, te ci vuoi i bananoni. Ciao, ciao, Manuè, a dopo. Manuele, Manuele. Manuele, Manuele.